Il pesce dalla testa dorata. Molto tempo fa, nel cuore dell'Egitto, vi era un grande palazzo. Tutti a palazzo erano in pena perché il loro re aveva perso la vista a causa di una malattia. Molti medici avevano cercato di curarlo, ma invano. L'intero regno pregava incessantemente. Pochi giorni dopo, una barca arrivò al molo. Ne uscì il dottor Wazir. Egli disse alla gente del posto di essere il medico personale di un grande re al di là del mare e che era disposto a dare un'occhiata al re d'Egitto. La malattia è brutta, ma non è senza speranza. È difficile, ma non impossibile. Posso ridargli la vista, ma avrò bisogno di un unguento molto speciale. Ti darò tutto ciò che sarà necessario per fare quell'unguento, ma tu dovrai salvare mio padre. L'unguento di cui ho bisogno viene ricavato dalle lacrime del pesce dalla testa d'oro. Troverai quel pesce da qualche parte nel mare grande. Io rimarrò qui per 100 giorni. Se riuscirai a portarmi quel pesce entro i 100 giorni, potrò fare l'unguento per tuo padre. Ma se non riuscirai a trovare quel pesce, allora io dovrò andarmene. Il principe partì immediatamente insieme ai suoi uomini. Il grande mare era a chilometri di distanza dal palazzo. Il principe e i suoi uomini cercarono in ogni modo di trovare il pesce dalla testa d'oro. Passarono i mesi, ma il pesce non si trovava da nessuna parte. Quindi, il 100° giorno... Rimane solo un'ora per finire l'ultimo giorno. Anche se trovassimo il pesce, non avrei mai tempo di tornare a palazzo prima che il dottore parta. Ah, ma non devo fermarmi. Posso immergermi nell'acqua un'ultima volta. E così fece. E questa volta, come il destino avrebbe voluto, trovò il pesce dalla testa d'oro. Portò il pesce fuori dall'acqua e lo mise in una ciotola. Ma mentre stava per chiamare i suoi uomini e riprendere la barca, guardò il pesce e non riuscì a muoversi. Il pesce lo guardò con occhi spaventati. Anche se il dottor Wazir se ne sarà andato, uccideranno questo pesce e tenteranno di fare tutti i tipi di esperimenti con esso. Ah, non posso farlo. Accetterò qualsiasi punizione io meriti. Ma se ho imparato qualcosa dai miei genitori è di non ferire un innocente. Rilasciò il pesce nell'acqua e partì per tornare a palazzo. Ben consapevole che la sua generosità non sarebbe stata accolta bene. Hai lasciato andare il pesce? Come hai osato? Buttatelo nelle segrete! Tutti sapevano che una volta mandato nelle segrete del palazzo, nessuno sarebbe mai stato rilasciato o richiamato. Ma il principe accettò la sua punizione in silenzio e se ne andò. Quella notte, la regina si intrufolò dove era imprigionato il principe. Oh, figlio mio, tuo padre è arrabbiato adesso. So che una volta che si sarà calmato, si pentirà delle sue azioni. Devi lasciare questo regno adesso. Ho preparato tutto per te. Ma, mamma... So che sto sfidando gli ordini del re, ma tu sei tutto per questo regno, bambino. Devo proteggerti. Il principe fu condotto attraverso un passaggio segreto che si apriva sul fiume. Una barca lo stava già aspettando. Salutò tristemente sua madre e iniziò il suo viaggio. Dopo aver navigato per tutta la notte, si fermò in un porto per riposare. Mentre camminava verso una bancarella per comprare della frutta, un giovane arabo si avvicinò a lui. Signore, sei nuovo qui? Sì, perché? Tu chi sei? Sono povero in cerca di lavoro. Hai bisogno di un servo? Avrei bisogno di qualcuno che navighi con me. Ma come ti pagherò? Potrei pagarvi quando vorrai, alla fine dell'anno, signore. Il principe era felice di aver trovato qualcuno con cui condividere questo lungo e interminabile viaggio. Comprò tutto il necessario e iniziò il suo viaggio insieme al suo nuovo compagno arabo. Navigarono insieme per settimane prima di arrivare in un porto. Sembrava un piccolo regno. Dobbiamo fermarci qui, signore. Siamo troppo lontani dal tuo regno e non possiamo navigare per il resto delle nostre vite. Dobbiamo fermarci da qualche parte così che il tuo regno possa trovarti quando ne avrà bisogno. Sembri così sicuro. Cosa ti fa pensare che verranno a cercarmi? È solo una sensazione. Il principe e il giovane arabo scesero al porto e iniziarono ad esplorare il regno. Era un posto bellissimo. Trovarono una locanda dove riposarsi e dove fecero una chiacchierata con il locandiere. Il locandiere disse loro che il re stava cercando di far sposare la sua bellissima figlia. Disse loro quanto fosse generosa e gentile. L'arabo notò che il principe si stava già innamorando di questa bellezza anonima. Oh, signore, devi andare a vedere la principessa. No, non dovresti. Lei è... Oh, per favore, sono sicuro che anche il mio principe vuole sposarsi. Signore, devi andare. Hai ragione. Allora andrò domani stesso. Il giorno seguente, come previsto, il principe entrò pieno di sicurezza nel palazzo reale. Camminò con grazia sul tappeto rosso e si inchinò al re. Vostra maestà, sono qui per chiedere la mano di sua figlia in matrimonio. Davvero? Va bene. Allora organizzerò il matrimonio. Sì, capisco. Vostra maestà, non vuol sapere chi sono? Bah, non importa. Non vivrai comunque oltre la 12ª ora del matrimonio. Lo sai, vero? No, vostra maestà. Per qualche motivo non mi è stata data questa informazione importante. Potrebbe illuminarmi, per favore? Bene, vedi, mia figlia ha sposato 192 uomini fino ad ora. Nessuno di loro è riuscito a sopravvivere oltre la 12ª ora di matrimonio. Puoi prendere del tempo per riconsiderare la tua proposta, se vuoi. Il principe pensò per un po' e, senza alcuna esitazione, promise di tornare il giorno dopo per la cerimonia nuziale. Tornato alla locanda, devi essere pazzo! Amico mio, la principessa è ovviamente in difficoltà. Probabilmente è posseduta. Devo aiutarla. Sapevo che non ti saresti tirato indietro, signore. Affronteremo insieme questa cosa. Il corteo nuziale fu unico nel suo genere. Da una parte il palazzo era decorato a festa e dall'altra parte del cortile del retro veniva scavata la tomba del principe. Tutti erano così sicuri che questo straniero sarebbe stato il numero 193 a perdere la sua vita. Dopo il matrimonio arrivò la 12ª ora. Il principe si sedette proprio di fronte a sua moglie su un'enorme sedia. La principessa non sapeva che anche l'arabo si trovava nella stessa stanza, nascosto nell'armadio. Stava aspettando di saltare fuori e proteggere il suo principe. L'orologio emise un forte rumore. Era il tempo. Lentamente, un lungo serpente luccicante uscì dalla manica della principessa. Sebbene il principe fosse pronto ad attaccare, accadde qualcosa di inaspettato. All'improvviso ci fu una musica nell'aria. Il principe poteva vedere il serpente avvicinarsi, ma lui e la principessa erano entrambi paralizzati. Era la musica. Paralizzava chiunque la sentisse. Ma in qualche modo Il giovane arabo non rimase paralizzato. Saltò fuori dall'armadio e prese il serpente per il collo. La musica improvvisamente si fermò e sia il principe che la principessa uscirono dal loro stato di ipnosi. L'arabo infilò rapidamente il serpente in una grande bottiglia di legno e la richiuse. Aspetta, come mai non sei stato ipnotizzato dalla musica? Non importa, mio signore. Tutto ciò che conta è che tu sia al sicuro. La maledizione della principessa fu annullata. Il principe e la principessa si abbracciarono e piansero per essersi trovati l'un l'altro. Se ciò non fosse abbastanza, pochi giorni dopo, un messaggero venne nel regno. Chiese del principe e gli diede la buona notizia. Mio principe, tuo padre ha riacquistato la vista. La regina gli ha detto della tua partenza e desidera che tu e la principessa torniate. Tutto venne preparato immediatamente. Felicemente la principessa, il principe e il suo compagno arabo salutarono il re. Una volta tornato, tutti nel regno furono entusiasti. Le celebrazioni andarono avanti per giorni, ma presto fu tempo per l'arabo di andarsene. Ma perché? Puoi stare qui? Non ti ho mai considerato mio servo. Tu sei un amico. Questa è la tua generosità, signore. Questa è la tua vera qualità che mi ha portato da te. Io non ti capisco. Do i pesci abbia Bora Bora Beboria, signore. Pesci? Sì. Sono lo stesso pesce dalla testa d'oro che hai salvato la volta. E ora che sei di nuovo nel tuo regno, io devo tornare al mio. Sarò sempre tuo amico, mio principe. Sarò sempre in giro per proteggerti. Mi hai aiutato a trovare casa mia? Non posso certo impedirti di tornare alla tua. Il principe abbracciò il suo amico e lo guardò allontanarsi. Aveva le lacrime agli occhi, ma un sorriso sul suo volto. Il principe andava spesso a visitare il suo amico nel mare grande. Rimase amico del suo pesce dalla testa d'oro per tutta la vita.